La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Con l'articolo 41 inizia la Costituzione economica, cioè iniziano quegli articoli con cui lo Stato regola e indirizza l'attività economica. È molto interessante il dato d'insieme che possiamo trarne, perché la Costituzione economica sposa da una parte lo spirito liberale della piena libertà dell'economia, ma dall'altro lo spirito socialista e di sinistra di una economia programmata, che serve allo sviluppo del paese. Questo binomio conflittuale lo ritroviamo subito nell'articolo 41. Il primo comma è purissimo nell'impostazione liberale. L'iniziativa economica privata è libera. È una frase così nitida, così netta, che non ha bisogno di commento. E affonda le sue radici nel Medioevo inglese, perché la prima tradizione sulla libertà dell'attività economica la si ritrova addirittura nell'articolo 30 della Magna Carta del 1215, quando veniva garantito ai mercanti di circolare e vendere liberamente, sia per terra sia per acqua, comprando, vendendo secondo le antiche buone consuetudini. Quindi la grande impostazione liberale. Ma questa grande impostazione liberale si abbina l'intervento. La legge determina programmi e controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Ecco come i fini sociali diventano lo strumento per l'intervento dello Stato in economia. E su questa base abbiamo non solo tutto un intervento forte dello Stato in economia negli anni, ricordiamo le partecipazioni statali, la base soprattutto nell'IRI, per cui lo Stato partecipa all'economia per indirizzarla a fini sociali, ma anche abbiamo misure più recenti come tutte le misure pro-concorrenziali. Dietro la parola pro-concorrenziali nascondiamo la libertà di concorrenza e quindi istituzioni come l'autorità garante del mercato e della concorrenza, l'antitrust, che servono proprio perché lo Stato possa controllare la libertà del mercato, eventualmente indirizzandolo al bisogno. Ovviamente questo binomio, questa discrasia fra la piena libertà e l'indirizzo ricevono un'influenza particolare dal diritto dell'Unione Europea, perché come vedremo in tutti gli articoli che seguono al 41, il diritto dell'Unione Europea è un diritto ispirato invece a una grande libertà e quindi tante forme di controllo e programmazione statale dell'economia sono venute meno proprio per l'appartenenza all'Unione Europea.